C'era una volta un vecchio saggio seduto all'entrata di una città. Il vecchio saggio guardava la gente che passava, andare e venire. A un tratto si fermò un giovane e gli chiese: «Come sono gli abitanti di questa città?» Il vecchio saggio gli rispose: «Com'erano gli abitanti della città da cui provieni?» E il giovane gli disse: «Erano tutti cattivi, egoisti, ognuno pensava a se stesso». «Guarda», gli disse il vecchio saggio, «gli abitanti di questa città sono esattamente allo stesso modo». Poco dopo un altro giovane arrivò e chiese al vecchio: «Come sono gli abitanti di questo paese? Provengo da un'altra città, vorrei sapere se vale la pena fermarsi qui. Come sono gli abitanti della città da cui provieni?» «Ah, erano tutte persone allegre, simpatiche, disponibili. Se avevi una necessità si davano subito da fare per aiutarti». Il vecchio gli rispose: «Anche in questa città sono così, fermati e non te ne pentirai». Un mercante era fermo lì già da qualche tempo e aveva seguito tutta la conversazione, per cui dopo che anche il secondo giovane se n'era andato, andò dal saggio e gli disse: «Ma come hai potuto dire cose diverse della stessa città a due persone diverse?» «Figlio mio», rispose il saggio, «ciascuno porta nel cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di buono in passato, difficilmente potrà trovare qualcosa di buono adesso. Al contrario, chi ha visto il bene in passato, chi ha incontrato amici leali e sinceri, è molto probabile che anche adesso possa trovarli. Perché vedi, ogni essere umano è portato a vedere negli altri ciò che ha nel suo cuore». Morale della favola: dove vado, vado. È sempre me stesso che porto. Che rapporti hai con le altre persone? Pensare che dipenda da come sono gli altri, è un po' un'illusione, a volte anche un po' una scusa, perché tanto dipende da te. Se sei aperto e positivo, facilmente avrai con gli altri relazioni aperte e positive. Se sei sempre diffidente, pauroso, che cosa mai potrai aspettarti dagli altri? «Ah, sapessi, mi hanno appena cambiato d'ufficio, sono così felice adesso, finalmente. Tutti i miei colleghi sono simpatici, aperti, disponibili, non come nell'altro ufficio dove facevo una vita terribile». Passa qualche settimana, incontro questa persona che mi dice: «Oh, sapessi», mi dice tutta sconsolata, «mi ero proprio sbagliata. Ho trovato anche lì persone invidiose, arriviste, persone con le quali è impossibile avere un dialogo sincero». Ma avrete intuito qual era il vero problema. Era che lui era sempre lui e ciò che era si portava dietro. Certo, non tutte le persone sono uguali, indubbiamente, ma l'atteggiamento che gli altri hanno nei tuoi confronti è in parte può anche essere uno specchio di ciò che tu sei, di ciò che tu porti agli altri. Perché in fondo è più facile pensare «è colpa degli altri», piuttosto che pensare «è una mia responsabilità». Come dice Gesù: «Date e vi sarà dato, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». Quali sono i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti nei riguardi degli altri? Che cosa comunicano di conseguenza le tue parole, i tuoi atteggiamenti quando ti avvicini a loro? Ora capisco meglio anche quella frase un po' misteriosa del Vangelo di Matteo: «A chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha».